Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Parma, la veglia delle pioppe scure, prostituta nigeriana uccisa, la preghiera delle compagne. La veglia delle pioppe scure, l'odore aspro di un pomodorificio al posto dell'incenso, per cupola al cielo, per pavimento uno spiazzo polveroso incrostato di macchie di carburante, il profilo della fabbrica buca il buio come una cattedrale notturna sotto le stelle, dietro un altare di pneumatici vibra un falò acceso dentro un bidone di latta, è notte. La strada di Martorano per una volta non è il solito lupanario. Le auto dei clienti girano a vuoto, scavano il buio con la lama degli abbaglianti. Stasera non c'è offerta. Nessuna lucciola brilla sul mosaico bisunto delle carraie sterrate o lungo i viottoli del sesso a pagamento. Sono tutte riunite per Rosemary, lì nello spazio fangoso del fabbricone. Angeli neri con la fede di un Dio giusto che spacca il guscio torbido del peccato. La messa delle puttane è un sogno di nobiltà. Loro, le reiette, le schiave d'Africa, hanno ammucchiato in una collina sgargiante i loro tacchi a spillo, le zeppe, le calze a rete, per indossare il velo della pietà. Sono arrivate la chetichella, unite dal passaparola che conoscono solo gli ultimi della terra. La messa è in pieno svolgimento. Una di loro, inguainata in un abito color smeraldo, alza il crocifisso al cielo come una spada che affonda nel buio fondo dell'indifferenza. La pattuglia della volante avanza lenta. C'è una macchia di luce là in fondo, una polvere di stelle che illumina un mucchio di scarpe colorate, e poi più in là 100-200 donne scalze che sembrano invasate. Sono sorpresi i poliziotti. Quell'assembramento è anche disconcertante. Le nere battono le mani sui tamburi, tanto basta per pregare Rosemary, la loro compagna massacrata a coltellate vicino a Bagnolo in Piano. È l'ultima di una lunga serie. La prima fu Janet, la cui ombra d'ebano una macchia mai sciolta nel greto del torrente Enza. Quando arrivò in quelle brume, gli uomini si passarono la voce. Dopo di lei ne seguirono tante altre. Nere veneri d'Africa lungo le vie delle porcilaie, sotto i filari d'uva, all'ombra dei gelsi. All'epoca le chiamavano le pioppe scure. Molti contadini della bassa non avevano mai visto donne così alte. Pelle di pece che brillava nelle penombre dei fossi dove gracidavano le rane. Sembravano cose della natura, cresciute come alberi di una specie rara in mezzo alla pianura. Ci andavano con il rispetto delle cose preziose. A volte stavano a guardarle per ore, dalla sala provinciale, come fossero magiche pedine di un gioco di scacchi misterioso, con il loro salire e scendere da vecchie utilitarie o da berline che poi, consumato a brivido di un amplesso, sparivano come animali impauriti. Janet la trovarono con il ventre squarciato, i piedi dentro al fiume. Dopo di lei ce ne furono altre, ammazzate da mani sconosciute, ricordi che si intorbidiscono nelle strette di nori scorsoi, nel gesto svelto arcuato di pugnalate, nel cerchio opaco della polvere da sparo che lascia cicatrici e silenzi. Nessuno ha mai dato un volto all'assassino. Le negre battono le mani sui tamburi, la litania dei loro canti riempie l'aria umida e vuota. C'è un gran numero di donne di colore, sembrano invasate. Cantano, grida il sovrintendente Mazzani a centrale operativa. Dall'altra parte arriva un gracchiare indistinto. È una notte strana, anche per le forze dell'ordine. La volante fa dietro front, se ne va. È morta Rosemary, sorella delle Savane, uccisa a coltellate come Janet. Il pioppetto nero si muove e sobbalza come spinto da un vento antico. Nel cielo si alza un canto che non è solo una preghiera, ma la voce di un destino che si spalda nella notte, laggiù nella pianura, verso il silenzio che tutto avvolge. Davide Barilli, in libreria con Le cere di Baracoa, Mursia, 240 pagine, 17 euro.